E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia. Buon pomeriggio, gentili ascoltatori, un saluto ad Alessio Maurizi, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri SMS. Come mai continua a salire il prezzo della benzina a pochi giorni da un nuovo esodo di milioni di italiani in macchina? Naturalmente la domanda è retorica, ce la siamo posta più volte. Continueremo a porcela, retorica non perché abbiamo delle risposte, ma insomma perché forse non ha neanche senso farsela. D'altronde le compagnie petrolifere dicono che agiscono nel rispetto delle regole dei mercati internazionali, e ci mancherebbe. Uno sguardo alla borsa, ce ne occuperemo di questo poco più avanti, e invece partiremo parlando di credito alle imprese. Dopo l'accordo importante firmato ieri tra ABI e Confindustria, andremo a dare uno sguardo in Toscana, dove qualcosa si è già mosso negli ultimi due mesi e i dati sembrano positivi. Dicevamo anche uno sguardo ai mercati finanziari per iniziare. Non ci sono molti movimenti a Wall Street in questo momento, sembrano piuttosto calmi gli indici. Il Dow Jones guadagna lo 0,04%, praticamente invariato, il Nasdaq cede lo 0,17%, senza grosse direzioni anche le borse europee. Il FTSE MIB a Milano guadagna lo 0,11%, ne parleremo più tardi dopo la prima pausa intorno alle 17.30, ma iniziamo con le principali notizie economico-finanziarie della giornata. Apertura in leggero calo per il petrolio sul mercato di New York. Il calo è dell'1,2%, il greggio adesso è di poco sopra i $70 al barile, e la notizia è tanto più interessante quanto, come dicevamo, dobbiamo andare a leggere sui mercati i nuovi aumenti della benzina. Ma a proposito di petrolio, non è un'associazione ambientalista, non è il solito grido d'allarme questa volta a parlare di crisi energetica e di crisi del petrolio. È un economista della International Energy Agency, e parliamo in particolare di Faith Birol, che all'Independent ha dichiarato ieri, ma lo leggiamo oggi, che i maggiori giacimenti di petrolio si esauriranno prima del previsto. Una crisi dell'energia entro i prossimi 5 anni potrebbe rallentare la ripresa economica, e questo è un timore espresso anche da molti organismi che danno valutazioni a livello internazionale sull'andamento dell'economia. E quindi i timori per un'uscita rallentata dalla recessione per via del prezzo del petrolio, che ha ripreso a correre, sono sempre più concreti. Questa volta l'economista in questione ci mette anche un carico da 90, dicendo che dobbiamo cominciare davvero a preoccuparci della fine dei giacimenti di petrolio. Insomma, qui le previsioni, a forza di farle, prima o poi ci indovineremo. Ne parleremo più avanti, faremo un approfondimento proprio su questo argomento. E come dicevamo, aumenta il prezzo della benzina. L'ha deciso l'Agip, che ha consigliato ai gestori un rincaro di 3 centesimi al litro, portando così la benzina a 1,34 euro al litro, il gasolio a 1,16. L'aumento in questo caso è leggermente inferiore. Sarà perché il petrolio scarseggia sempre più, come diceva l'economista citato poco fa? Oppure sarà, come dicono le associazioni dei consumatori, perché ci sono delle speculazioni? Oppure, come dicono le compagnie petrolifere, gli aumenti sono dovuti soltanto alla una ripresa imminente dell'economia, che starebbe così generando una richiesta maggiore di petrolio? Sarà quel che sarà, questa è la notizia a pochi giorni da un nuovo esodo previsto degli italiani in macchina. Come dicevamo, le associazioni dei consumatori, a cominciare dal Codacons, protestano. C'è chi chiede al governo di convocare l'ENI, dice il Codacons, perché avrebbe dovuto avere un comportamento più responsabile l'AGIP, sapendo che i suoi aumenti normalmente sono seguiti poi dagli aumenti delle altre compagnie, e così infatti è stato. Esso, Shell e Total hanno annunciato altrettanti aumenti. Federconsumatori se la prende con il meccanismo di speculazione ben noto: i prezzi che aumentano al crescere del petrolio e non decrescono al decrescere del prezzo del barile. E poi, come detto, la posizione delle compagnie petrolifere, che invece dicono siamo alla ripresa imminente, siamo nell'imminenza di una ripresa dell'andamento dell'economia, e quindi è normale che il prezzo del barile tiri un po' di più. È tempo anche di trimestrali. Ci sono quelle del settore dell'auto negative. Toyota ha annunciato perdite nette in Giappone per 570 milioni di euro, anche se ha rivisto al rialzo le stime per l'anno in corso, e quindi una notizia negativa, ma insomma il raffronto con le stime lascia vedere un po' di luce in fondo al tunnel. E poi c'è anche BMW, che il gruppo tedesco bavarese, che ha annunciato per il secondo trimestre dell'anno un calo degli utili. Qua è un bagno di sangue, pensate, meno 76,1% a 121 milioni di euro. Da aprile a giugno le vendite del gruppo BMW sono diminuite del 26%, a poco più di 306.000 veicoli, calcolando i tre marchi BMW, Mini e Rolls-Royce. Anche qua però, dice la casa bavarese, le stime erano peggiori, e quindi insomma l'andamento, se ripetiamo pure negativo del 76% degli utili, è comunque migliore delle previsioni. In tutto questo continuiamo a registrare la performance di Fiat, in questo caso in Germania, patria dell'auto europea. Dall'inizio dell'anno le vendite di auto Fiat sono cresciute, pensate, del 94,9%. Dunque c'è stato un raddoppio netto, in sostanza, delle vendite di Fiat in Germania. E ora ci occupiamo invece di banche, e anche qua non sono notizie positive. Cominciamo con UBS, la prima banca svizzera per asset, che ha chiuso il secondo trimestre con una perdita di 1,4 miliardi di franchi svizzeri, pari a quasi un miliardo di euro. Pensate, una perdita poderosa, anche se nuovamente in questo caso si tratta di perdite inferiori rispetto a quelle previste dagli analisti. Cominciamo a pensare che gli analisti puntino il faro verso il basso per poi dire è andata meglio delle attese, ma insomma questo è un retropensiero negativo, lasciamo perdere. Ci sono invece da registrare le dichiarazioni interessanti, e sono notizia, dell'amministratore delegato di UBS, che ha detto: lo Stato se ne andrà entro la fine dell'anno, lo Stato elvetico cederà la sua quota nel capitale di UBS entro fine anno, la banca svizzera non ha bisogno, a proposito, di un aumento di capitale. Queste sono le dichiarazioni di Oswald Grubel. E andiamo in Francia, dove a proposito di banche le notizie sono leggermente più positive. BNP Paribas ha chiuso il secondo trimestre con un utile in leggera crescita del 6,6%, pari a 1,6 miliardi di euro, e si tratta di un risultato migliore del previsto. Invece in Italia Unicredit, anche qua la chiusura, in questo caso si tratta della chiusura del semestre di quest'anno, che è stato chiuso con un utile netto di circa 937 milioni, in calo rispetto ai quasi 3 miliardi che erano stati registrati nel primo semestre dell'anno scorso. Ma anche qua il consensus degli analisti era peggiore, dunque insomma tutti vedevano nero. Adesso le trimestrali arrivano, i dati continuano ad essere negativi, ma un po' meno del previsto. Segnali arrivano anche dall'economia americana, sono segnali importanti perché i redditi delle famiglie americane a giugno sono scesi dell'1,3% ed è il calo più forte dal gennaio del 2005. Per quanto riguarda invece il dato dei consumi, il Dipartimento del Commercio americano dice che la spesa delle famiglie a giugno è aumentata dello 0,4%, ma al netto del tasso di inflazione c'è stato un calo dello 0,1%, dati che secondo molti analisti farebbero pensare che i consumi americani ci metteranno molto più tempo del previsto a recuperare rispetto invece a quella che potrebbe essere la ripresa dell'economia. Veniamo in Italia, c'è un dato di ieri sera che fa riflettere, un dato pesante che riguarda il fabbisogno dello settore statale che nel 2009 è stato di circa 4 milioni di euro rispetto ad un saldo che era positivo nei primi mesi, scusate, nel mese di luglio dell'anno scorso, dunque un anno fa, era stato positivo per 1.772 milioni di euro. Sono dati comunicati dal Tesoro che ci ricorda anche come nei primi 7 mesi di quest'anno si è registrato complessivamente un fabbisogno di 53,6 miliardi di euro, superiore di circa 31,3 miliardi a quello analogo, scusate, a quello dell'analogo periodo del 2008, che era stato di 22,3 miliardi di euro. Dunque, ripetendo, per sintetizzare, un fabbisogno di 53,6 miliardi quest'anno era 22,3 l'anno scorso. E poi, sempre per quanto riguarda l'Italia, ma ne parleremo più avanti, ci sono i dati dell'Unione Europea sullo scarso traffico, sullo scarso consumo di internet da parte del sistema paese Italia nel complesso. Siamo ultimi nella graduatoria dell'Unione Europea, ma di questo, come detto, parleremo più avanti. Adesso invece cominciamo con il primo approfondimento di giornata, che riguarda l'accordo che si è chiuso ieri tra le banche e Confindustria sul credito alle imprese. Dunque, l'accordo, insomma, ne abbiamo già parlato, prevede un accordo tra l'ABI e non solo Confindustria, ma tutte le organizzazioni imprenditoriali, che prevede tra le altre cose una moratoria per la restituzione dei crediti alle aziende. Allora, prima di entrare nel dettaglio, io saluto anche i nostri ospiti, che sono Cesare Fumagalli, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Segretario generale della Conf Artigianato, e anche salutiamo Mario Silvestroni, presidente degli industriali di Grosseto. Buon pomeriggio anche a lei. Grazie, buonasera. Allora, in Toscana andremo per vedere quali sono, se è possibile già farli, i primi bilanci di quella che è un'esperienza simile. Cercheremo di capire che cosa è stato fatto in quella regione ad anticipare quello che è stato invece l'accordo di ieri. Un accordo che riguarda soprattutto le piccole e medie imprese, parliamo delle imprese fino a 5 milioni, scusate, 50 milioni di euro di fatturato e 250 dipendenti. Allora, Fumagalli, la prima cosa che tutti ci chiediamo: servirà questa iniezione di fiducia e anche di risorse nelle casse delle piccole imprese? Lei rappresenta gli artigiani, 521.000 piccole e medie imprese in Italia. Tremonti ha parlato di boccata d'ossigeno. Lei è ottimista? Guardi, io credo che, senza appenderci speranze eccessive, però quello, l'accordo raggiunto segna intanto una consapevolezza comune. Voglio dire, non senza sottovalutare gli effetti pratici e concreti che saranno di interesse da settembre di molte decine di migliaia di aziende interessate, in attesa che il mercato ridia fiato, ad avere un allungamento sui tempi di pagamento per le scadenze che hanno. Ma dicevo, è importante ancora di più, a nostro parere, per il clima che crea, rendendo comune una sensazione che le imprese vivono da molti mesi, cioè quella di essere in uno stato di grave difficoltà. Sentire che attorno il sistema paese, il governo che ha partecipato e ha sollecitato questa intesa, il sistema bancario che altrettanto si rende partecipe almeno per un po' delle difficoltà delle imprese, io credo che faccia molto bene al clima sicuramente. Gli effetti concreti bisogna conquistarli uno a uno. Ecco, noi abbiamo già raggiunto proprio nella giornata di ieri, immediatamente abbiamo chiuso un'intesa con il primo grosso gruppo bancario, con Unicredit Group, avevamo già siglato in precedenza con la Federcasse, che rappresenta le banche di credito cooperativo, adesso speriamo di poterlo fare anche con altri istituti di credito. Lei dice, insomma, gli effetti concreti, insomma, dovremmo misurarli più avanti, dovremmo essere in grado anche noi stessi di produrli. Non è possibile fare una stima di quanto in termini di produzione, di PIL, di quanto in termini di risorse proprio per le PMI questo accordo potrebbe generare anche come effetto indotto? Non so se avete fatto dei calcoli, delle stime. Credo che la stima sia davvero difficile. Cito un dato: negli ultimi mesi era cresciuto fino a raggiungere e a passare l'8% il numero di pratiche richieste di affidamento che venivano respinte dagli istituti di credito. Io credo che fosse che interrompere la catena perversa, per cui non si può accedere ad una serie di finanziamenti perché si hanno difficoltà nella restituzione di quelli in essere o un allargamento della linea di fido, ecco, allora questo 8% di fidi nuovi negati credo che possa essere eroso dall'entrata in campo anche di questa possibilità di posporre di 12 mesi i mutui, di 6 mesi i leasing, le rate di leasing, e di 9 mesi le altre forme a breve di anticipazione. Ecco, Fumagalli, prima di andare poi in Toscana a vedere che cosa è stato realizzato in quella regione per quanto riguarda il rapporto tra imprese e banche, l'accordo firmato ieri è un'intesa, insomma, prevede il congelamento per un anno, come diceva lei, di rate mutuo e leasing, sia a tempo fino al 30 giugno, se non ho capito male, del 2010 da parte delle imprese per fare domanda. Ma io mi domando, visto che questo accordo, come è stato ampiamente detto, non è vincolante per le banche, questo è un limite che naturalmente sta anche un po' nelle cose, non si può costringere nessuno a far niente, forse per fortuna, però esatto, bisogna fare il tifo per un'economia di esatto, forse anche per fortuna, però io mi domando che succede all'impresa che va allo sportello e gli viene detto no grazie, non è possibile nel suo caso fare questo accordo. Vedi, qui credo scende in campo un ruolo delle associazioni di categoria. Noi come Confartigianato ci siamo attivati e lo faremo nei prossimi mesi grazie alla capillarità della nostra rete. Noi abbiamo 1250 uffici in altrettanti comuni d'Italia. Beh, saranno tutti punti sui quali le imprese potranno appoggiarsi per, se serve, avere un aiuto nella negoziazione con le banche. Ma ancora di più, le dicevo, di un accordo che abbiamo stipulato ieri con Unicredit, e qui si dà vita ad un esperimento, quindi dei comitati misti che possano affrontare proprio le casistiche che presentino qualche difficoltà. Quindi lei dice saremo lì al fianco delle imprese a cercare di capire i casi concreti e naturalmente a così, mettere olio nei meccanismi dell'ingranaggio per farlo funzionare meglio. Mario Salvestroni, mi scusi, presidente industriale di Grosseto. Allora, che cosa esattamente avete fatto voi in Toscana? Un accordo simile, leggiamo anche da quello che riporta oggi alcuni giornali, è già in vigore da un paio di mesi. Ci spieghi esattamente sì, da giugno di quest'anno sì. La Regione Toscana si è posta, devo dire, in modo precoce questo problema e attraverso Fidi Toscana e attraverso le banche che hanno aderito a questo accordo, che poi sono numerose, sono quelle che agiscono sul territorio, praticamente ha già fatto un prodotto che consente la moratoria per un anno delle quote di capitale con una garanzia di Fidi Toscana e per il 30% del debito residuo, in modo tale che la banca ha il vantaggio sostanzialmente che accettando la postergazione delle quote di capitale si trova ad avere una garanzia accessoria sul 30% di tutto il credito che vanta successivamente allo spostamento, all'accettazione della moratoria. Fra l'altro la garanzia a prima richiesta, per cui chiaramente è particolarmente appetibile per le banche. Devo dire che questo è un prodotto che è stato molto apprezzato, anche perché ci sono casi particolari. Immaginiamo le aziende che devono, o nel settore edile, oppure quelle che comunque devono dismettere degli immobili. In questo momento si troverebbero a dismettere immobili che hanno una penalizzazione significativa sul valore e invece verrebbero venduti meglio, diciamo, dopo la crisi. E anche per quanto riguarda le imprese edili che devono vendere immobili che attualmente hanno finito, stanno ultimando, i clienti in questo momento hanno difficoltà a reperire mutui e quindi è più difficile vendere gli immobili, molto più facile venderli quando ripartirà il mercato. Quindi, Salvestroni, avete anche in questo caso, glielo chiedo, ma sarà prestissimo, insomma, immagino, già non so, dei dati su quante imprese, su quanto si è già riuscito a fare in Toscana grazie a questo lavoro che è stato fatto con le banche e con anche l'impegno della regione? Dunque, le domande sono state alcune centinaia già presentate, diciamo il grosso ce l'aspettiamo da settembre in poi. Certo. Sì, anche perché diciamo la verità che qualche imprenditore inizialmente ha avuto anche un po' la difficoltà, la diffidenza di capire come sarebbe stato percepito dal sistema bancario, casomai come sintomo di debolezza, il fatto di chiedere la moratoria delle quote di capitale, mentre ora invece che è stato pubblicizzato opportunamente ho visto che questo aspetto è stato superato senza problemi. Fra l'altro si diceva appunto che forse sarebbe stato bene pensare anche eventualmente, se possibile, anche addirittura una moratoria più lunga, per questo motivo, perché non tutti ritengono e non in tutti i settori probabilmente la crisi sarà del tutto superata in 12 mesi e non c'è di peggio che saltare mezzo fosso, perché l'acqua è più fonda nel centro del fosso. E devo dire che l'altro aspetto che poi avvantaggia nella moratoria delle quote di capitale è il fatto che i vecchi mutui hanno degli spread più bassi di quelli attuali, per cui un'impresa che vuole continuare a investire gli conviene sospendere il rimborso dei vecchi mutui e finanziarsi con gli spread vecchi piuttosto che non accendere nuovi mutui certo. E nuove iniziative con spread più alti, perché si questo parla di un punto più alto. Questo è chiarissimo. Fumagalli è il segretario generale di Confartigianato. Le chiedo, anche alla luce di questa esperienza della Toscana, dove in questo caso la regione si fa garante, se non ho capito male, per un 30% di quelli che sono i crediti residui, l'intervento invece del governo a livello nazionale è stato quello di garantire sgravi alle banche che si adopereranno in questo senso. Lei forse. Si ritiene, questa è proprio la domanda, soddisfatto per quella che è stata la mediazione? Lei diceva non si può costringere nessuno a far niente, però insomma il ruolo dello Stato, del governo come regolatore e anche come entità in grado di incentivare, ecco, mettiamola così, questo tipo di accordi, si ritiene soddisfatto o si può fare, si poteva fare, si potrà fare dell'altro? La considerazione che noi abbiamo fatto come Confartigianato è che, essendo questa una crisi di mercato, ogni intervento pubblico poteva sicuramente aiutare o peggiorare a seconda della direzione, ma mai essere risolutivo. Essendo proprio una crisi di mercato, occorrerà che sia il mercato a ritornare ad avere le condizioni perché le imprese vadano bene. Fatta questa premessa, dico che gli interventi sono stati fino a qui dei piccoli interventi, ma sui quali noi esprimiamo un apprezzamento, perché una somma di piccole cose stanno mettendo in campo condizioni che aiutano davanti ad una crisi che ha le caratteristiche, non dimentichiamoci, di essere una crisi assolutamente profonda. Per alcuni settori, cali di fatturato del 60-70%, non c'è intervento pubblico che li possa risolvere. Lei prima parlava di una sottointesa che state già portando avanti con Unicredit. Mi viene da chiederle se la concentrazione del sistema bancario che si è andata fortificando e sviluppando negli ultimi anni in Italia in questa fase è un aiuto, per esempio fare accordi con i grandi gruppi e quindi per tutte le imprese che sono sul territorio, oppure se a fronte di questa concentrazione invece la frammentazione del mondo delle imprese in Italia possa essere una lotta impari nella partita, diciamo, del credito in questi mesi? Questa apertura un po' fisarmonica, essere una big company capace però di stare sul territorio, di articolarsi, è un segreto. Vale per le banche, è valsa nelle banche, ma a rovescio potrei dire è valsa per il sistema delle banche di credito cooperativo, che hanno avuto performance straordinarie in questo anno e più di crisi, proprio perché sono riusciti a stare in rete. La stessa cosa vale per le piccole imprese: ogni volta che riescono a stare in rete, lei pensi al sistema dei consorti fidi, è la più straordinaria esperienza quarantennale di una funzione aziendale messa in rete. La funzione della finanza d'impresa messa in rete ha dato vita ai Confidi. Sia che su altre funzioni aziendali a sviluppare parimenti, nel comparto dell'artigianato ci sono oltre 700.000 imprese che fanno capo, che fanno parte, che sono consorziate a consorzi fidi. È una lezione importante sulla quale stiamo anche noi riflettendo. Benissimo, io mi fermerei qua e ringrazio i nostri ospiti, Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato, nonché Mario Salvestroni, presidente degli industriali di Grosseto. Abbiamo parlato del congelamento dei debiti delle PMI, l'accordo siglato ieri a livello nazionale, e dell'esperimento che già da giugno la Toscana sta portando avanti in questo senso. I dati sembrano incoraggianti, la prova del 9 arriverà naturalmente a settembre con la ripresa economica e delle attività economiche, e staremo a vedere. Adesso è il momento della borsa. Allora, come dicevamo anche in apertura, borsa poco mossa. A Wall Street il Dow Jones guadagna lo 0,02%, praticamente invariato, il Nasdaq cede lo 0,13%, le piazze europee proseguono senza direzioni precise, dopo invece la giornata molto più netta di ieri. E invece per quanto riguarda Piazza Affari, il FTSE MIB mette a segno un rialzo dello 0,26%. Diamo un'occhiata ai principali rialzi tra i titoli principali di Piazza Affari: Unicredit più 3,2%, Snam Rete Gas più 1,55%, va bene anche Telecom più 1,5%, Italcementi più 1,2%, Mediolanum più 1,2%. Stima Microelectronics guadagna lo 0,83%, c'è anche Ansaldo che si mette in luce più 0,7%, Unipol più 0,6%, Fiat con i dati positivi di ieri guadagna lo 0,48%, in controtendenza, beh, insomma, Fondiaria Sai c'è del 5,06%, Prismian il 2%, Eni il 2%, UBI Banca il 2%, e non sono solo questi titoli, ci sono altri titoli del settore bancario che fanno un po' di fatica, a dire la verità. Mediobanca meno 1,8, mentre gli altri titoli sono per lo più in positivo. Ma cominciamo a capirci qualcosa di più con Guido Maurino di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E allora, da cosa vogliamo iniziare? Io parlavo di bancari, Unicredit. Sì, iniziamo allora dai bancari, in particolare da Unicredit, perché se, come dicevi tu, oggi non è stata una grandissima giornata per i bancari, Unicredit invece ha chiuso in forte rialzo guidando il listino dei titoli principali, ha guadagnato il 3,25% e il merito va soprattutto ai conti semestrali pubblicati oggi. Il titolo, diciamo che dopo una mattinata opaca in scia a tutto il settore bancario, ha accelerato subito la diffusione dei dati nel primo pomeriggio. Il gruppo ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 447 milioni, sopra i 434 milioni che erano attesi dagli analisti. In particolare si fa notare come sia proprio il secondo trimestre quello che abbia indicato una prima inversione di tendenza per Unicredit, anche se, diciamo che rispetto all'anno scorso il calo è ancora pesante, meno 74,4% rispetto al secondo trimestre 2008, meno 68,5% l'utile netto rispetto al primo semestre 2008. E invece per quanto riguarda l'altra grande banca in Italia, Intesa San Paolo, che ha annunciato tra l'altro la cessione inizialmente del 50%, no, del 50% inizialmente, di un 25% di Findomestic a BNP Paribas, che succede? Sì, Intesa San Paolo si è mossa in terreno positivo, diciamo, per quasi tutta la giornata, ha chiuso a più 0,10%, anche in questo caso è l'operazione straordinaria che ha annunciato oggi che ha consentito all'istituto di mantenersi sopra la linea di galleggiamento. In particolare, come dicevi tu, la banca ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per la cessione a BNP Paribas della società, del suo 50% della società di credito al consumo Findomestic, società che appunto era detenuta al 50% da Intesa San Paolo e al 50% da BNP Paribas. L'accordo prevede una cessione in due parti: il primo 25% sarà ceduto a BNP Paribas entro il 2009, mentre la parte restante, l'ulteriore 25%, fra il 2011 e il 2013. L'impatto si vedrà già comunque a partire da quest'anno per Intesa San Paolo, in quanto nell'esercizio in corso ci sarà un impatto positivo per circa 260 milioni di euro sull'utile netto consolidato e di circa 13 punti base sul Core Tier 1. Dicevamo Fondiaria Assai in fondo al listino meno 5,06%, verrebbe da dire c'è poco da dire, e invece che cosa c'è da dire, Guido? Anche in questo caso sono i conti che, al contrario di quello che è accaduto per Unicredit, questa volta hanno penalizzato la compagnia assicurativa. I risultati sono stati in qualche peggiori dell'attesa. La compagnia assicurativa infatti ha visto gli utili scendere a 32,4 milioni di euro contro i 261,3 milioni dello stesso periodo nello scorso anno, ma soprattutto 32,4 milioni si confrontano con gli 89 milioni che erano indicati dalle attese degli analisti. Male anche il combined ratio, che è quell'indicatore che misura un po' il rapporto fra quanto incassano e quanto pagano le compagnie assicurative nella loro attività. Questo rapporto è salito sopra il 100%, al 101,8%, a causa dell'incidenza delle catastrofi naturali che si sono verificate, mentre gli analisti si attendevano un 97,1%, quindi anche questo rapporto è andato a incidere negativamente poi sul risultato di borsa. Quello che invece è un caso positivo, anche se oggi non brilla eccezionalmente, è Fiat. In questo caso sono anche questa volta i dati, però non delle trimestrali ma delle immatricolazioni, no, a parlare. Sì, diciamo che se nella mattinata erano prevalse le prese di beneficio, ricordiamo che ieri Fiat ha guadagnato il 7,33%, in chiusura invece il lingotto ha chiuso positivamente, ha guadagnato lo 0,48%, le immatricolazioni in Italia che sono state diffuse ieri a borsa chiusa sono andate bene per la casa automobilistica di Torino, le vendite di auto sono salite nel mese dell'11,1% rispetto al 6,2% del mercato a luglio, e anche i dati che sono stati diffusi oggi sulle immatricolazioni in Germania mostrano come il lingotto stia crescendo anche appunto in Germania, con un più 95% sempre nel mese di luglio. E invece per quanto riguarda il gruppo Mariella Burani, ci sono delle notizie che giustificano il calo? Sì, il gruppo Mariella Burani oggi ha perso quasi il 10% ed è stato penalizzato dalla notizia diffusa oggi dal quotidiano La Repubblica, secondo cui la Procura di Milano avrebbe aperto un'indagine per aggiotaggio e falso in bilancio sulla società. Va precisato che la società, in una nota, ha sottolineato di non essere coinvolta nell'indagine in corso, però certamente questa indagine sui bilanci della Mariella Burani ha penalizzato, diciamo, il titolo. 349-238-6666 per i vostri SMS. Salutiamo, diamo il buon pomeriggio anche a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Buon pomeriggio. Buongiorno. Buongiorno. Tabarelli, sulla crescita di questi 3 centesimi di euro al litro del prezzo della benzina alla pompa, ne voglio sottoporre 3 possibili risposte. Perché il prezzo del petrolio è destinato a crescere, visto che il petrolio è destinato a finire, come dice l'economista che abbiamo citato in apertura, Faith Birol, dell'eminente International Energy Agency, di cui tra poco le chiederemo anche di commentare le previsioni, oppure, come dicono i consumatori, semplicemente perché c'è un meccanismo di speculazione, siamo a pochi giorni dall'esodo, nuovo esodo estivo, oppure, come dicono le compagnie petrolifere, siccome c'è una ripresa imminente a settembre dell'economia, il petrolio tira un po' di più, ecco spiegati gli aumenti della benzina. Tabarelli. Ma guardi, le cose sono molto semplici, basta prendere il prezzo internazionale della benzina, che non è quello del petrolio, perché dal petrolio si ottengono tanti altri prodotti, metterci sulle tasse e un po' di margine normale, si ottiene questo prezzo ottimale, che attualmente è addirittura un po' più alto rispetto al prezzo alla pompa, perciò il prezzo ideale attualmente dovrebbe essere addirittura superiore, perciò le compagnie, mi dispiace dirlo per l'associazione dei consumatori, ma si stanno comportando fin troppo bene in questo istante. Ovviamente quello che varia molto in questo periodo, come accennava lei, è il mercato internazionale del petrolio, da cui deriva anche il prezzo internazionale della benzina, che poi determina quello alla pompa. Questo sta oscillando tantissimo. E c'è stata una ripresa negli ultimi giorni, ci che dà la colpa, come al solito, la speculazione, la finanza, e questo può essere in parte vero. Ecco, ci sono segnali di ripresa economica, ricordiamoci, un anno fa, in questi giorni, a vigilia delle vacanze, andavamo con $130 per barile, eravamo stati a 147, il prezzo del gasolio, della benzina, viaggiavano a 1,50. E i consumatori italiani continuavano ad aumentare la domanda di benzina e di gasolio, ovviamente brutta cosa quando ci sono dei prezzi in aumento, ma cerchiamo anche di vedere l'aspetto positivo, cioè quello che rifletterebbe, speriamo che sia così, una prossima uscita dalla recessione più grave della storia recente degli ultimi 50 anni. Tabarelli, io in apertura di questo collegamento le citavo quelle che sono le dichiarazioni dell'economista della International Energy Agency, che è intervistato ieri dall'Independent, cioè sui giornali di oggi, ha dato delle affermazioni piuttosto importanti. Insomma, io leggo alcuni stralci: la produzione di greggio diminuisce del 6,7% l'anno, il doppio rispetto a quanto ipotizzato solo nel 2007 dalla sua stessa agenzia. Tra 10 anni, dice, a parità di consumi avremmo bisogno di 4 Arabie Saudite per mantenere gli standard attuali. Quello che io mi domando è, a furia di far previsioni sul picco del consumo, dell'estrazione di petrolio, prima o poi ci indovineremo. Stavolta però l'allarme viene non da un'associazione di ambientalisti, ma dalla eminente agenzia di cui parlavamo. Lei che ne pensa? Ma io massimo rispetto per Birol e per l'International Energy Agency, che fanno delle cose ottime. Peccato, mi viene però da ricordare che 3-4 anni fa davano per scontato una forte riduzione dei prezzi del petrolio da 40-30, dicevano che c'era abbondanza, che la domanda stava scendendo prima. La cosa sicura è che in questo momento di petrolio ce n'è tantissimo, nonostante quei prezzi che stanno aumentando, la cosa è un po' strana. Pensi che la capacità inutilizzata attualmente ha raggiunto un record storico di 7 milioni di barili al giorno, quasi quanto la produzione dell'Arabia Saudita. Cioè sta scendendo la produzione adesso perché la recessione mondiale ha determinato un crollo dei consumi, pertanto abbiamo raggiunto un picco l'anno scorso, perché l'anno scorso c'era stato il picco di domanda. Ma quello che tocca veramente il problema Birola è quello del Medio Oriente. Guardi, se riusciamo a fare uscire il Medio Oriente dall'isolamento in cui è entrato per varie ragioni, allora del petrolio, questo è il mio parere, ne avremo per molto tempo a venire, possiamo stare tranquilli. Ovviamente lo dobbiamo pagare un po' più caro, ecco, quello sì. Rispetto sicuramente a quelle che sono le quotazioni attuali, che sono sui $70 al barile, mi pare di capire. Sì, perché guardi, a giudicare dalla domanda, come è stata l'anno scorso, che non reagiva neanche quando i prezzi erano 150, uno verrebbe da dire che ci sono margini, potrebbe andare anche 200 e 250 un giorno. quel punto lì diventano fra l'altro sfruttabili delle riserve immani, ingentissime, che sono attualmente lasciate lì perché costano troppo, come gli scisti bituminosi del Canada o del Venezuela, che sono pari alle riserve mondiali attualmente accertate di petrolio. Se il prezzo è molto alto, conviene pulire quelle cose molto, mi scusi il termine, schifette, e poi lì avremo tantissimo petrolio, ma a dei prezzi più alti. Perciò io, francamente, di picco del petrolio non lo so, non ci credo, ecco, sono abbastanza ottimista. Certo, bisogna essere più efficienti sia nel consumo che poi anche negli investimenti, soprattutto tornare nel Medio Oriente, dove lì piace sempre ricordare che, perché è un paradosso, lì il petrolio, i costi di produzione sono sempre 2-3 dollari per barile contro i 70 di oggi, e le riserve sono il 60% di quelle mondiali. Benissimo, più efficienza nel consumo e anche negli investimenti. Grazie Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. La notizia: più 3 centesimi di euro al litro la benzina, il petrolio in leggero calo a 70 dollari al barile, le incognite su quanto ce n'è ancora da sfruttare nel mondo. Ci ha raggiunto il collega del Sole 24 Ore, Luca Tremolada, che scrive, buon pomeriggio, scrive su Nova, si occupa e mangia ogni giorno pane e internet. E bit, diciamo. Pane e bit. Pane e nuove tecnologie. L'abbiamo chiamato per commentare un po' e cercare di capire questa notizia che è di oggi. Secondo una classifica dell'Unione Europea, gli italiani non usano internet. Secondo dati diffusi oggi dalla Commissione, l'Italia è l'ultimo paese dell'Unione quanto a download di film e musica, anche visione di video online, e tra gli ultimi paesi, il 23esimo in particolare, ad usare il web regolarmente. Allora Luca, la prima cosa che mi viene a chiedere è, insomma, ai primati negativi l'Italia purtroppo in certi campi ci è un po' abituata. Stavolta è una notizia, è una cosa inedita, è una classifica che stiamo risalendo, siamo fermi, qual è la situazione? Allora, la situazione è questa, allora, partiamo dai numeri che sono quelli, insomma, che non cambiano, e devo dire che questo rapporto dice qualcosa di positivo per quanto riguarda l'Europa, ovvero che più della metà delle famiglie e quindi oltre l'80% delle aziende naviga a banda larga. Questa è, diciamo, la parte positiva del rapporto. Passiamo alla Europa. Questo è in Europa. Perfetto. Per cui l'Europa in un certo senso si identifica come una nazione già pronta ad entrare nell'economia digitale. Siamo in un digitale. Contesto positivo, esatto, da questo punto e di vista. E può utilizzare, infatti il titolo di questo rapporto, insomma, può utilizzare la risorsa internet per uscire dalla crisi. Ed è questo un po' il tema della ricerca. Adesso guardiamo un po' a casa nostra. Quello che si dice di casa nostra è che noi saremmo al 24esimo posto tra gli stati europei se consideriamo la percentuale delle famiglie con una connessione ad alta velocità. 24esimo posto cosa vuol dire? Il 30%, una famiglia su 3, diciamo, contro il 74% di Danimarca e Olanda. Su questi dati, cioè sull'accesso delle famiglie a internet, siamo storicamente indietro. E siamo ancora più indietro, da qui il fanalino di coda, attenzione, lì parla dell'utilizzo di internet, del download legale. Per cui qui, cioè, è divertente, nel senso che noi effettivamente non paghiamo i contenuti, cioè nel senso non utilizziamo, non scarichiamo legalmente o scarichiamo meno degli altri contenuti. Cioè ci sono più pirati, ci sono più... Il tema è quello, infatti. In Italia che altrove. La settimana scorsa parlavo con l'ESVI, che insomma sono l'associazione del software, la quale diceva che l'Italia ha lo sgradito record di essere la prima in termini di pirateria, per esempio sui videogame. Noi ci siamo distinti nel mondo per aver scaricato un gioco di macchine in milioni di esemplari. Per cui, insomma, da un lato si appare come un paese che usa poco internet, dall'altro però, insomma, scarichiamo illegalmente come pochi. Ecco Luca, al di là di questo aspetto, quali sono invece le ragioni per cui, insomma, ci ritroviamo in un'Europa che va, però l'Italia che invece insomma arranca la fotografia, sintetizzando, tanti cellulari e pochi computer? Esatto, diciamo che il tema è digital divide, ovvero in Italia il 13% della popolazione non ha accesso alla banda larga, per cui insomma non può neanche decidere se avere o no una connessione, non ce l'ha. Questo è un tema storico, perché l'Italia è fatta strana, è lunga, ci sono le montagne, la telecom non arriva ovunque. Per insomma affrontare il tema del digital divide c'è un programma del governo, anzi c'è un finanziamento, c'è un piano che è di 1,4 miliardi di euro. Sono sufficienti secondo te? Allora, per gli esperti no, nel senso che questi finanziamenti dovrebbero risolvere due problemi. Da un lato appunto combattere il digital divide, dall'altro lanciare quelle che sono le reti di nuova generazione, cioè l'internet super veloce, l'internet per, diciamo, alimentare il business. Ecco, cosa sta succedendo? Di questi soldi, ed è un momento di polemica attuale, non c'è ancora traccia, nel senso che pochi giorni fa Paolo Gentiloni lamentava il fatto che dal CIPE la prima tranche del Partito Democratico. Insomma, lamentava che dal CIPE la prima tranche di 800 milioni era stata stralciata, non c'erano soldi per la banda larga. Per cui, insomma, in questo momento si sta cercando di capire se ci sono questi soldi, un piano è pronto e vedremo nei prossimi giorni se ricompariranno. In rete si è discusso molto di questo tema. Che... Tanto questo dovrebbe essere un volano davvero per l'intera economia, quello della banda larga, insomma è un tema che si è detto tante volte, ma l'Italia è pronta, perché poi forse non ci sono i computer, ma mi dicevi prima della trasmissione, gli italiani fanno anche un uso un po' bizzarro di internet, non vanno nei social network, non fanno una serie di cose che negli altri paesi si fanno. Cioè l'Italia è pronta per questa scommessa dal punto di vista anche economico o no? L'Italia sta, io sono abbastanza ottimista, nel senso che se è vero che scontiamo un ritardo di accesso quindi alla rete, dall'altro è vero che abbiamo uno stuolo di giovani e battaglieri imprenditori che stanno cominciando a sfruttare la rete. Do un'osservazione, cioè per la prima volta stanno tornando il capital venture sul mondo internet, per cui insomma sta succedendo qualcosa in Italia, è un mercato giovane e quindi è un mercato di ampie possibilità di crescita. Quanto tempo ci vorrà Flash per risalire questa classifica? Secondo te è questione davvero di, non so io, di mesi, oppure è una battaglia che si vince nei prossimi 5 o 10 anni? Se questo piano andrà in porto, se si comincerà a mettere mano alle reti di nuova generazione, poi allora, i tempi si accorciano, si comincia a correre molto rapidamente. Benissimo, grazie allora anche a Luca Tremolada, collega del Sole 24 Ore, per questo ultimo approfondimento. Ci fermiamo qua, un ringraziamento anche a Mauro Del Corno in redazione, a Pietro Lacorte in regia, da Alessio Maurizio un saluto, l'augurio di una buona serata. Focus Economia torna domani, tra poco le notizie del giornale radio. Radio 24, la passione si sente.